Il vocabolario della lingua italiana definisce frustrazione quel sentimento di chi ritiene che il proprio agire sia stato o sia vano. In psicologia la frustrazione è quella condizione psichica determinata da un mancato o ostacolato appagamento di un bisogno. Con un significato più specifico, in psicanalisi è l'effetto della mancata soddisfazione di una pulsione. Dopo aver letto queste definizioni mi sono reso conto che se cica è una persona con delle frustrazioni sono io. Sono entrato in questo mondo pieno di bisogni fisici e morali. Ho vissuto fino ad oggi con dei bisogni fisici e morali insoddisfatti e sono sicuro che morirò che ancora non avrò soddisfatto del tutto i miei bisogni fisici, morali e spirituali. Cosa dire, sono allora una persona frustrata? Dipende da cosa si intende per persona frustrata. Se per persona frustrata si intende quella che vive con dei bisogni inappagati, allora lo siamo tutti, perché nessuno, ma proprio nessuno, è in grado di soddisfare ogni sua esigenza. Se invece per persona frustrata si intende chi vive con desideri insoddisfatti, ma è comunque sereno e felice, allora si può essere una persona frustrata dato che si vive con delle frustrazioni. Ma queste non condizionano la vita al punto da ritenere che il proprio agire sia stato o sia vano o, detta diversamente, al punto di sentirsi inutile. In effetti la chiave per non vivere condizionati dalle inevitabili frustrazioni è proprio quella di sentirsi realizzato o di avere degli obiettivi per i quali vale la pena di vivere frustrati, inappagati o soffrendo ogni tipo di rinuncia. Ne danno un esempio gli esploratori, gli scalatori e tutti coloro che svolgono uno sport o una disciplina altamente rischiosa e che richiede grandi sacrifici. A loro non importa essere frustrati, perché il loro obiettivo è molto più importante della mancata soddisfazione di una pulsione. Che dire poi di coloro che hanno ideali politici e religiosi per i quali sono pronti a sacrifici immani, pronti fino a sacrificare la loro vita pur di raggiungere il loro ideale? Perciò non sono tanto le frustrazioni a rendere snervante e frustrante la vita, ma la mancanza di ideali che siano in grado di farci vivere con desideri insoddisfatti. Dove trovare questi ideali? Ce ne sono tanti, e mentre molti degli ideali umani si rivelano inutili, tutti sono temporanei perché terminano con la morte. Occorre perciò l'ideale o l'obiettivo per il quale vale la pena vivere con delle frustrazioni, e cioè con la presenza di due bisogni di uguale intensità ma di opposta direzione, o comunque incompatibili. È evidente che il vero ideale per quale vale la pena vivere debba andare oltre la nostra esistenza umana, e cioè oltre la tomba, e il cristianesimo viene incontro a questa necessità. È vero che anche altre religioni offrono obiettivi oltre la tomba, ma nessuna di queste offre una certezza immediata. Il buddismo, il cattolicesimo romano, l'islam, lo shintoismo, l'induismo, l'ebraismo, tanto per citare alcune religioni, propongono gioie e benedizioni future, ma tutte condizionate dal nostro modo di vivere. In definitiva, la religione è lo sforzo dell'uomo per ottenere qualcosa dalla divinità, mentre il cristianesimo è la divinità, cioè Gesù Cristo, che fa qualcosa, e cioè si incarna, muore in croce e risorge, per dare certezza alla fede posta in lui. Perciò, la certezza del cristiano di avere un obiettivo per il quale vale la pena vivere con delle frustrazioni non risiede nelle proprie capacità, ma in un fatto storico avvenuto circa 2000 anni fa, fatto che non può più essere cancellato. Così, l'unico vero obiettivo che vale la pena perseguire con delle frustrazioni è quello di vivere per compiere la volontà di Cristo. In merito non mancano le testimonianze, una delle quali è quella dell'Apostolo Paolo vissuto poco dopo la morte e la resurrezione di Cristo e che mette in evidenza come vivono i cristiani di ogni epoca consacrati nella predicazione del Vangelo. Riferendosi a dei falsi apostoli, Paolo scrisse «Sono essi ministri di Cristo?» Parlo da stolto, io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente, nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole? Che non lo sia anch'io. Chi è scandalizzato? Che io non arda? 2 Corinzi 11.2-3.29. Non si può certamente dire che la vita dell'Apostolo Paolo sia stata esente da frustrazioni, ma poco gli importava perché l'obiettivo di predicare l'Evangelo era più importante dei suoi desideri insoddisfatti. La fede in Gesù Cristo non è una fuga dalla realtà, ma è la realtà stessa. Il cristianesimo è una realtà positiva e dinamica che si infiltra in ogni settore della vita, è il collante e il motore della società. Perché, se così non è, non è il vero cristianesimo. Il Dio trino dei cristiani non è una divinità lassù, nel cielo che osserva gli uomini in modo distaccato, ma Cristo Gesù si è fatto uomo per vivere con gli uomini e per dare loro delle regole adatte ad una vita abbondante. Se l'uomo e la società sono frustrati è perché non ascoltano l'ideatore e il sostenitore della vita, cioè Cristo Gesù, il quale ha dato delle leggi perché l'uomo conosca un'esistenza al di sopra delle mancate soddisfazioni che lo frustrano. Un esempio lo possiamo trovare nella lettera scritta da Paolo agli Efesini, nella quale troviamo ordini tesi a produrre una vita appagante. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con amore come a Cristo e non come agli uomini, sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. E voi padroni fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il loro è vostro Signore in cielo e che presso di Lui non c'è che alcuna parzialità. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 6.1.10. In poche righe. L'Apostolo Paolo ha toccato 2 rapporti personali e sociali di importanza capitale. Il rapporto tra genitore e figlio e quello dei datori di lavoro e dei dipendenti. Ogni ruolo, perché possa essere non frustrante e perché non provochi frustrazione, deve essere svolto con saggezza divina. Il genitore non deve imporre ordini che provochino frustrazione, cioè che irritino i figli. I figli non devono frustrare i genitori ubbidendo ciò che è giusto. Inoltre, coloro che sono titolari non devono frustrare con minacce chi è loro sottomesso, mentre chi dipende dal datore di lavoro non deve frustrare il suo padrone lavorando solo quando è visto. Un cristianesimo che non produce questi effetti rimane una religione teorica inutile e vana. Dopo aver dato questi ordini, l'Apostolo Paolo usa un verbo molto trascurato anche perché non sempre compreso, fortificatevi, verbo espresso nel contesto della fede in Cristo. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Fortificarsi nel Signore è la risposta alle frustrazioni quotidiane. Quando ogni motivazione di vita viene meno, quando non si ha ragioni di vivere e relazionarsi con il prossimo, quando la ragione non è più un supporto per stimolarti a trovare incentivi, quando le frustrazioni ti costringono a gridare nell'anima, è il momento di trovare delle risorse che non appartengono a questa vita. Fortificarsi in Cristo non significa prendere dei ricostituenti quando non sei in forma, ma quando non puoi assolutamente fare più nulla. Non significa trovare altri obiettivi oltre quelli che hai già, ma trovare delle ragioni di vita quando non ne hai più. Quando Gesù disse «Io sono la vita» voleva proprio dire questo. Gesù non voleva dire che egli dava altre energie fisiche e morali a chi già ne aveva, come un atleta che è in forma ma vuole migliorare le sue qualità fisiche. Gesù si propone e vuole essere la forza, le ragioni, gli obiettivi per chi non ha più forza fisica, né obiettivi né ragioni per andare avanti. E questo vale soprattutto per chi è frustrato e depresso. È facile e normale cantare inni a Cristo o esaltare la sua persona quando la vita scorre nella norma, quando in famiglia non vi è nulla di catastrofico, quando la salute ci sorride, quando si è pieni di programmi futuri. Ma Cristo diventa veramente la vita nella nostra esistenza, quando non abbiamo più ragioni per vivere, quando ogni ragione umana non è più un sopporto per vedere il sole oltre le nuvole. Il profeta Isaia disse delle parole di un'attualità impressionante. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Isaia 40.3031. Il discorso di Isaia è questo. La vita è piena di frustrazioni al punto che i giovani, simbolo dell'energia vitale, meno non hanno più ragioni per vivere, e questo si vede ogni giorno. Ma chi trova nuove ragioni di vita in Cristo, prende coscienza che la sua esistenza con le frustrazioni non è vana, ma è inserita in un ben preciso piano di Dio. Da notare che Isaia parla di nuove forze, perché le vecchie ragioni di vita ormai sono morte, ma una fede rinnovata giornalmente in Cristo ci rende consapevoli che noi abbiamo valore per Dio. La fonte è inesauribile e sempre a nostra disposizione. Sta a noi frustrati attingervi. Marzo 2006, Ellero.